A me dispiace di adesso togliere la parola, faccio una breve sintesi, togliere la parola a coloro che hanno in questo momento si sono svegliati, per così dire, o meglio, noi abbiamo programmato 2 ore di sonno teologico in questo pomeriggio, penso che moltissimi sono stanchi, ma grazie a Dio, come la morte di Cristo poi ha generato proprio per volontà del Padre la risurrezione, anche in questo nostro piccolo convegno molti si sono svegliati in questo momento. Allora io riassumo, o meglio, avrei diritto di dire, rimando al futuro escatologico la sintesi di questo nostro convegno, ma vi permetto così di offrirvi un piccolo mazzetto di fiori. Il primo, ho ribadito già oggi, ieri sera, e lo ribadisco anche in questa conclusione, diamo l'impressione di essere tornati indietro di anni, 30, 40, 20 anni almeno. Cioè torniamo, per così dire, a ridibattere gli stessi problemi. Per quale motivo? Io penso che ci sia anche una crisi sopravvenuta nella Chiesa stessa, la quale nel Concilio ero presente euforicamente, ha fatto spazio per le ratio studiorum alle scienze umane, nominando in particolare psicologia e sociologia. Ma quanto è difficile non introdurre queste materie, ma farle funzionare positivamente. Io ho in mente per la psicologia la crisi che è cominciata subito, a Guernavaca, Le Mercier, fino a Dreverman, per dire. Ma anche la sociologia dà questi tremiti di paura, perché l'introdurre le scienze umane vuol dire introdurre anche principi di rinnovamento profondo, di riforma. È adeguata la Chiesa? La paura, penso io, di tanti di fronte a questi effetti, forse perché non li abbiamo maneggiati bene, sono diventate bombe, ha forse rallentato questo ottimismo di inserimento, di integrazione di queste scienze umane in particolare con la teologia. Ma io penso che una ragione sia anche la crescita numerica dei teologi in Italia, almeno parlo io, e dei sociologi. Perché io che sono anzianetto ho vissuto il crescere lento sia dell'uno che dell'altro gruppo, perché l'inizio anche di Acquaviva è dipeso da Studio Patavina, con la fortuna di avere un vescovo come Monsignor Bortignon che l'ha favorito nel realizzare la prima rivista di sociologia religiosa in Italia, è nata sotto quella protezione, devo dirlo. E dunque la crescita di teologi e di sociologi ha fatto sì che i soggetti, come è stato detto in questo convegno, valgono più quasi delle stesse materie. I teologi, i psicologi, i sociologi sono più importanti della teologia, della psicologia e della sociologia. Allora è ovvio che il numero complesso di teologi e di sociologi abbia reinventato sempre da capo le prospettive delle singole materie. Il conflitto, la tensione più che tra teologia e sociologia è tra questa ricchezza, e i teologi anche tra di loro hanno linguaggi diversi, fanno fatica, dicono. Quindi la complessità viene a svilupparsi anche all'interno del mondo dei teologi, del mondo dei sociologi. Ognuno è una persona, inventa un suo linguaggio, si trova meglio con quella sottolineatura, diventa doveroso, importante, direi etico, il mettersi insieme del numeroso gruppo di teologi e di sociologi. Anche questo fa parte della complessità e dell'avvenire. È che non siamo noi i più numerosi. Se c'è qui ancora Gibellini, potrebbe dire la più grande associazione teologica, non è quella italiana, quella tedesca, è quella del terzo mondo. I teologi del terzo mondo, mi pare che siano, c'è qui Gibellino, 2000. Noi saremo, ci vantiamo di essere un paio di 200, 300. Beh, ecco alcuni. E mi è sembrato importante che da questo punto di vista è uscito solo in questo pomeriggio, indicato il problema non solo della interdisciplinarità, ma addirittura della transdisciplinarità. E a questo livello, per preparare il piccolo schema di pensieri che vi do, io vi dico, confesso chiaramente, che tutto quello che ho sentito in questi 2 giorni, io dentro di me lo avevo già sentito, a livello ecumenico. Cioè io ho l'impressione che tutto questo discorso di sinodalità, di transculturalità, questo discorso noi lo facciamo ancora perché come teologi partiamo dalla teologia confessionale, eventualmente, se è possibile, arrivando a questa teologia del futuro. Mentre ormai è necessario partire dalla teologia ecumenica, la più ampia, cioè quella che si confronta con tutto il mondo della religiosità e delle religioni, per poi arrivare a, direi, a riscoprire la fede cristiana. Ecco il mio pallino. Quindi tutto quello che adesso vi dico è in rapporto a questa mia non enfasi del déjà vu, ma di Dio, questa quasi sofferenza di vedere che non abbiamo il coraggio di partire dall'universale più ampio, ecco il futuro, per poi arrivare a quello che scopriremo parziale, ma denso di universalità. L'ecumenismo ha già scoperto questa verità, è l'universale che ci deve attrarre, però per arrivare all'universale noi dobbiamo valorizzare al massimo l'implicito, il virtuale che c'è dentro ad ogni, lo diceva già Daniel Uffon, se ogni religione finisse di considerarsi l'arrivata, la fine dei tempi, ma più quasi appena balbettante rispetto al futuro che essa ha davanti a sé, se ogni religione sprigionasse da sé ciò che la spinge ad essere di più ad essere universale veramente, noi avremo un domani la transdisciplinarità o la transumanità. Ecco, però perlomeno, ecco, dico, in questo nostro convegno alcune cose sono emerse. Per esempio il dibattito sui millenni, che una volta sembrava un vocabolario voitigliano, basta. Adesso lo trovo in un recente articolo di Boltzmann, tranquillamente anche lui va per millenni. È impossibile non andare per millenni. Questo è, lo dobbiamo mettere in testa. Non dobbiamo più ragionare per 10 anni, dobbiamo ragionare per millenni, perché tutto si è impacchettato, condensato. È vicinissimo il terzo millennio, proprio nella sua globalità. Secondo, almeno abbiamo appreso che il futuro ci riserva complessità, io ripeto invece spesso complessificazione crescente, non una complessità, ma un crescere della complessità. Addirittura, a livello ecumenico è stato detto più volte, la sperimentiamo insuperabile, irriducibile, per cui è stato detto, do ragione, non possiamo subito pensare a un cooperare, a un progetto unico, ma dobbiamo pensare piuttosto a una nuova mens, ecco la spiritualità, ecco quello che diceva Donati, cioè dobbiamo, e questo è il valore di questo nostro convegno, prepararci a questo futuro, perché il futuro sarà non della cooperazione, sì anche, ma soprattutto dalla capacità di mettersi in un atteggiamento per cui ognuno riconosca la sua parzialità e una certa irriducibilità, insuperabilità della complessità e del conflitto. Partendo, terza idea, da quali idee? Che proprio per amore della verità, che in questi giorni quasi è stata messa in tensione, ma appena nel sottofondo rispetto alla funzione, alla varietà, alla parziale, proprio per amore della verità, noi dobbiamo considerare la diversità, anche quando appare insuperabile, come ricchezza. Questo è un acquisito nel campo ecumenico, è ricchezza. Ecco perché allora bisogna simultaneamente, diremmo, adeguarci alla frantumazione, in un certo senso, esorcizzandola se volete, ma anche ricordandoci che oggi più aumenta il pluralismo etnico eccetera, più aumenta l'esigenza, la sete magari nascosta di unità. Dobbiamo vivere su queste due. Ecco allora il tema della conciliarità, della sinodalità, della relazionalità eccetera. Tutti i molti soggetti e i molti modelli non devono essere di nuovo messi in conflitto perché vinca uno solo. Più soggetti abbiamo, per quanto parziali, e più modelli abbiamo per poter interpretare la ricchezza, è quasi infinita la ricchezza storica prodotta dall'uomo. Ogni frammento è un infinito, dal mio punto di vista. E allora ecco l'importanza di un atteggiamento che io chiamo ecumenico, chiamiamolo invece recettivo, conciliare, sinodale, eccetera, una nuova universalità. Ecco la crisi per me, anche teologica. Bisogna pensare che l'universalità non è più quella declinabile come con il modello vecchio. con il modello di ieri. Ma non è che venga tramonti, è una nuova universalità fatta ma ripartendo dal frammento parziale, ma attraverso reti. Vi ho accennato che anche a livello ecumenico il primato del Papa non è più scandito, scansato, messo da parte, ma deve trovare una nuova edizione. Ecco, questo mi sembra uno degli aspetti più importanti. Una quarta, non so, o quinta tensione di questi giorni è la ricerca di un livello comune, di un fondo comune, ma anche qui con il riguardo che questo fondo comune, in cui intendersi, non dica deprezzamento della diversità, ma anche quasi la valorizzi. Guardate che a livello ecumenico si dice dalla diversità all'unità, cioè dalla parzialità alla universalità, cioè non svilendo la parzialità come destinata ad essere un frammento che muore, ma come una universalità contenuta virtualiter, intensivamente. Più che il numero diventa importante la qualità. Però, quinta osservazione, siamo di fronte a cambiamenti, li abbiamo detto già il primo giorno, grandemente forti, non solo di ristrutturazione così parziale, ma di grande profondità. Per cui, come è stato detto, il cambiamento nel modo di essere della società della Chiesa toccherà anche il che cosa è la Chiesa, il che cosa è la società. Zulena ha citato il fatto che si chiede che le Chiese siano capaci anche di cambiare certe loro verità. Mamma mia, questo è drammatico, eh? Però provate a pensare, studiamo la storia. Certe affermazioni ritenute vere, a distanza di 50 anni, anche dagli stessi patroni che hanno vissuto un'esperienza come il Concilio, hanno cambiato idea, cioè le hanno riverificate, reinserendole in un'altra prospettiva, per cui sono state ridimensionate. Pensate l'idea extra ecclesiam, nulla salus, basta una. Ecco, questi erano gli orientamenti che io ho colto, più di, ripeto, esigenti metodologia diversa, spiritualità diversa, mens diversa, atteggiamento di capacità di porsi di fronte a questo futuro. È su questo che dobbiamo, però concludo, molte altre tematiche sono state anche avviate a livello di contenuto. Pensiamo alla mondialità già accennata, l'eticità che diventerà veramente un nodo per poter far passare l'interesse per l'uomo e l'interesse per Dio, e addirittura la mistica e la spiritualità. Io però concludo sostenendo che mi è sembrato, ma non so se interpreto male, che da un certo punto di vista, mi pare un'intuizione felice, ribadita fino all'ultimo momento, quindi, da una parte le scienze umane, e in caso particolare la sociologia, sono chiamate a intensificare in profondità la loro prospettiva sull'uomo, avere il coraggio di domandare molto all'uomo, e di interpretarlo e di aiutare l'interpretazione in profondità, in modo che ciò che esse cercano e scoprono è qualche cosa che già si lega a ciò che la teologia, o meglio la fede, ha trovato forse, ma dovrebbe ancora di più cercare. Dall'altra parte, la teologia, questo è ancora molto problematico, però io ho il coraggio di dirlo, la teologia come tale, mentre le scienze umane sono chiamate a intensificare, essendo puntuali, ciò che misurano, cercano e decifrano nell'umano, la teologia è chiamata a universalizzare di più il contenuto specifico, penso, di quella cristiana. C'è bisogno, ripeto, che la teologia sappia collocare qualsiasi suo tema, anche Cristo, penso all'Eucaristia stessa, penso alla Trinità, dentro un contesto che universalizzi, almeno a livello culturale, perché il cristianesimo come tale ha molto ancora da dare a livello culturale, anche a chi non crede. E da questo punto di vista deve una tensione feconda tra le scienze che puntualizzano e la teologia, chiamiamola anche solo sapienza, che invece universalizza, questa tensione diventerà sempre più necessaria in un mondo appunto che si frammenta fino a scaricare tutto sugli individui che non riescono a realizzare la propria identità, non hanno più appoggi. E dall'altra parte su un mondo invece che diventa talmente uno e piccolo che sembra quasi resistere ad ogni tentativo di decifrazione nella sua complessità. Mi sembra di aver colto, insomma, qualcosa almeno di utile per me. Mi auguro che sia anche utile per voi. Non mi resta che l'obbligo di dire una parola di saluto e di ringraziamento. Ringraziamento che comincia proprio dal nostro presidente Sartori, che abbiamo avuto la gioia di riavere in mezzo a noi in tutta la sua vivacità e freschezza spirituale, anche se siamo sofferenti un po' con lui, vero, per le difficoltà di locomozione che senza dubbio li costano, anche li fanno costare molto di più presenze come questa. Gli auguriamo veramente di cuore che questo spirito così fervido e scoppiettante lo aiuti veramente anche al recupero dello slancio vero fisico stesso, vero, che noi vorremmo con tutto il cuore vedere recuperato da lui, no? Poi ringraziamento a tutti i relatori, no? Al coordinatore dottor Capraro, la cui diligenza si è veramente dimostrata in questa nostra riunione. E vorrei dire che questo nostro stare insieme sta realizzando quello che è un sogno di questo istituto, cioè arrivare a impastare un po' questo dialogo. Io ho raccomandato a lui, quando ha iniziato il lavoro da noi, veramente di sforzarsi di recuperare e di aiutarci a contattare il mondo della teologia, ma nella sua attualità, nella sua posizione attuale e viva. E credo che in questo lui ci ha aiutato, io non posso che ringraziarlo. Tra i relatori non posso omettere almeno il professor Zulehner, che mi auguro ancora presente tra noi, e a quello, senza nominare singoli, vero, aggiungo tutti gli altri relatori e quelli che sono intervenuti, quelli che hanno assistito assiduamente a questa sessione, che credo veramente tutti hanno aiutato nel far sì che si sviluppi questo clima nel quale abbiamo cercato di capirci un poco di più. Ecco, e questo ringraziamento, se mi è consentito, lo vorrei esprimere anche a nome dei miei confratelli sacerdoti di questa diocesi, a cominciare da Monsignor Vicario e da altri che vedo qui presenti tra gli operatori nel campo pastorale. Io ho la sensazione che siamo stati arricchiti fortemente da questo discorso, anche se ci ha insegnato proprio che tradurre questo in assiomi pratici o in decisioni immediate non è la cosa più facile del mondo, ma già l'addestramento a pensare è un grande aiuto. Penso che Monsignor Vicario mi consente di dirlo anche a nome suo, vero? Ecco, ci siamo accorti, come in tanti altri incontri, che il discorso tra teologia e sociologia, impostato come tale, in forma universale, è estremamente difficile. Un po' più facile diventa, si traduce in discorso tra teologi e sociologi, no? E forse ancora più facile se, pur mettendo, lasciando sul programma la parola teologia, forse direi sulle spalle di tutti cercassimo di mettere invece la parola fede. Certo, non una fede non attrezzata, non una fede così sperduta, ma una fede che, a seconda della situazione in cui viene a trovarsi, cerca anche di capirsi in profondità, di sentirsi veramente nella sua realtà intima e viva. Forse questo ci aiuta un po' di più a trovare la strada. Il nostro presidente Arrigo ci ha anche scioccati un po' dicendoci che dobbiamo tener conto anche della possibilità che a venire non ci sia. E anche questo è stimolante, non c'è dubbio, dobbiamo anche a questo pensare. No? Un'altra parola che mi è emersa più di una volta nel contesto del discorso e che non so fino a che punto possa essere utile che sia detta in conclusione, è la parola comunione, quella coinonia di cui il secondo capitolo degli Atti degli Apostoli parla e di cui a suo tempo il padre Hertling ci aveva fatto un trattato intero, che vedo poi ripercorso molto forte nel Lumen Gentium, la Chiesa come comunione, quel concetto di comunione nel quale in realtà era contenuto tutto il diritto canonico in germe e così tutta l'ecclesiologia dei primi tempi, forse può essere ancora una parola che aiuta in questo senso. Comunque io con questo senso di comunione vorrei dire a tutti il mio saluto e il mio augurio di buon ritorno a casa e l'invito a ritrovarci, perché abbiamo compreso che se il discorso forse nei suoi assiomi supremi è difficile, quando viene applicato a un'applicazione concreta, a un campo, a un settore più specifico, allora è più facile ritrovarsi. E se questo ritrovarci potesse su settori specifici, potesse ripetersi sia anche in incontri, direi, più modesti, più ristretti, tipo seminario, sia in altri incontri come questo, credo forse la crescita potrebbe progredire. In questo senso di comunione mi permetto ancora di dare con l'arrivederci una notizia per quanto riguarda il convegno dell'anno prossimo, che siamo soliti fare in maggio, vero? Il discorso è rivolto soprattutto ai colleghi, vero, dei teologi dei seminari dell'Alta Italia, ma benvenuti anche gli altri senza dubbio. Cioè, il proposito nostro per l'anno prossimo si pone in termini alquanto straordinari, perché nel mese di maggio l'Istituto di Scienze Religiose promuove nel ritmo biennale in cui stiamo sviluppando un progetto dedicato alla conoscenza di Antonio Rosmini e della sua opera, abbiamo in animo di celebrare in maggio e non in autunno l'anno prossimo il convegno a Rovereto su Antonio Rosmini, dedicandolo alla teologia di Rosmini e alla situazione teologica in cui lui è convissuto, allo sforzo teologico da lui portato. E penseremmo, il consenso del nostro presidente l'ho già assicurato, di invitarvi a Rovereto per questa volta, invece che a Trento, vero, e chiedendovi di partecipare. È un convegno che dura 3 giorni, per questo anticipo già un po' l'attenzione, ma chi può fermarsi solo un giorno e mezzo o due, certamente non è ici amforas, non lo mandiamo via, questo potete star sicuro. Ecco, annuncio pratico, per il resto in senso di comunione, buon ritorno a casa e arrivederci. Grazie all'Istituto e grazie Monsignor Roger.